Ricordate, poiché in tutti e tre i casi al numeratore avete 10 kg, un volume maggiore al denominatore produrrà una densità più bassa. Quindi, per ottenere la densità più alta, quale volume dovrete scegliere?